qualcosa di importante, ma le canzoni come i tuoni lampeggiano per un istante, poi svaniscono nell'aria, resta polvere soltanto, labile impalpabile di risa, amaro e solo pianto. So tu mi vorresti più romantico maturo, a volte mi vorresti un po' arrogante, sempre lì impalato a programmare il mio futuro, ad impegnarmi ad essere importante. È sempre quella nebbia buia, strade vuote, tra momenti persi e dubbi sorsi, si confondono le note di chitarre arrovellate su versi urlati a mezza voce, brindisi e malinconie aspettando un po' di luce. La luce al buio, sai, un po' così che si sta insieme, si brinda anche alle 5 del mattino, si sorride finché il gioco riesce bene e finché resta ancora un po' di vino. Passa i dubbi, tutti te li lascia, spegnere i pensieri che ti riempono la testa, le solite cazzate te le vorrei ma non ci riesco, le lascia quelle come te che si arrendono troppo presto. Invece lo sentivo che era giusto ritentare, a rischio di poter farsi del male. Sai che dalla vita, se si vuole rosicare, innanzitutto si deve rischiare. E ti rimando indietro le tue scuse senza senso, e oggi me ne voglio un po' fregare. Tanto poi lo sai come sono fatto e cosa penso, vorrei solo farti ritornare. Vorrei solo farti ritornare. Vorrei solo farti ritornare.